volta non mi ispira un cazzo, ma io insisto ancora, qualcosa verrà fuori, stanne certo. Sembrava che non avesse un cazzo da raccontare, invece tu la conti piano le cose se io mi impegno a dire stronzate, anche se non so. Ay, ay, ay.